много могил неизвестных людей. Мариуполь. Domenica 17 novembre, ancora dalla Biennale di Venezia, sono ormai quasi mezzogiorno, qui si cammina parecchio, sono nel padiglione ucraino. A proposito di luoghi che diventano notizia molto più dei giornali, è affascinante perché io ho sempre incrociato qui a Venezia padiglioni nazionali che sembrano fare un framing del mondo, cosa che mi aspettavo in modo particolarmente intenso qui nel padiglione ucraino. Come sempre in tempo di guerra invece sono stati capaci di realizzare qualcosa che parla di morte. Morte senza colori, senza bandiere, senza confini. Morte, cioè c'è una collezione di testimonianze video utilizzate e pubblicate sui social dai cittadini ucraini di persone trovate morte per strada a seguito evidentemente dei bombardamenti, dei combattimenti e anche delle improvvisate fosse comuni di persone ancora da seppellire. E poi anche cimiteri improvvisati nei giardini dei condomini. La morte non ha colore, mi verrebbe da dire che ha un solo colore, e poche cose come l'arte riesce a trasmettercelo, mentre noi siamo invece tutti impegnati ogni volta a stabilire di chi è la colpa, chi ha cominciato per primo, chi ha ragione, da che parte dobbiamo stare. Sono tutte domande sbagliate. Thank you.